Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È Eclettica quella che sta per iniziare, insieme a Giulio Caperdoni, tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM. Eclettica è disponibile anche in podcasting, i dettagli li trovate su myspace.com/eclettica oppure su www.radiorockfm.com. Trovate le indicazioni su come fare per avere sul vostro lettore MP3 le trasmissioni settimana dopo settimana. Come settimana dopo settimana potete avere la playlist di quanto vi sentite in Eclettica, ovvero sia l'elenco delle canzoni, degli incipit e degli sprazzi cinematografici, playlist che trovate sempre su myspace.com/eclettica oppure potete riceverla direttamente nella vostra casella di posta se scrivete a giulio@radiorockfm.com e dite voglio essere parte della lista nera. Non queste parole precise, ma comunque il senso deve essere sostanzialmente questo. Come l'indirizzo giulio@radiorockfm.com da utilizzare tutte le volte che vi viene in mente qualcosa che abbia senso dirmi. Come per esempio mi ha scritto Leonardo qualche giorno fa e vi state per rendere conto nel corso di questo volume numero 4 di Eclettica di quanto questo suo mail abbia influenzato le mie scelte. Don Camillo era uno di quei tipi che non hanno peli sulla lingua e la volta che in paese era successo un sudicio pasticcio nel quale erano immischiati vecchi possidenti e ragazze, Don Camillo, durante la messa, aveva cominciato un discorsetto generico e a modino. Poi, a un bel momento, scorgendo in prima fila proprio uno degli scostumati, gli erano scappati i cavalli e, interrotto il suo dire, aveva gettato un drappo sulla testa di Gesù dell'altare maggiore perché non sentisse e, piantandosi i pugni sui fianchi, aveva finito il discorso a modo suo. E tanto era tonante la voce che usciva dalla bocca di quell'omaccione e tante grosse le diceva che il soffitto della chiesetta tremava. Naturalmente Don Camillo, venuto il tempo delle elezioni, si era espresso in modo così esplicito nei riguardi degli esponenti locali delle sinistre che, una bella sera, tra il lusco e il brusco, mentre tornava in canonica, un pezzaccio d'uomo intabarrato gli era arrivato alle spalle schizzando fuori da una siepe e, approfittando del fatto che Don Camillo era impacciato dalla bicicletta, al manubrio della quale era appeso un fagotto con 70 uova, gli aveva dato una robusta suonata con un palo, scomparendo poi come inghiottito dalla terra. Questo ovviamente era l'incipit di Don Camillo, Mondo Piccolo, di Giovanni Guareschi. E mi permetto di aprire una parentesi. Ieri, mischiando le cose che mi ero preparato per questa settimana, ho letto un incipit di Giovanni Guareschi attribuendolo a Francesco Guccini, che nessuno dei due, e soprattutto voi, me ne vogliano. All you kids that go rushing to the dance hall in your shiny shoes to hear your favorite records. You've got it made, you've got it made. Yeah, there's nothing like a sound to get you moving. Clears out all the empties in your brain. Makes you feel alive and strong to say, hello, I'm here. I was born to let you know I love you. I was born to let you know I love you. And all you kids come rushing out that dance hall, you're sweating. Talking about you should try to change. 'Cause I never felt so good, it never felt so right when that 45 it played for the first time. It cleared out all the empties in my brain, made me feel alive and strong to say hello, I'm here. I was born to let you know I love you. I was born to let you know I love you. I was born to let you know. I was born to let you know. Yeah, I was born. Hello, I'm Tom Hanks. The U.S. government has lost its credibility, so it's borrowing some of mine. This is Tom Hanks saying, if you're going to pick a government to trust, why not this one?